abbiamo uscito, no, appena esci su si blocca e rimane bloccato. A bordo di Faruzzo, da bere un poco, passi e non si ferma più. Secondo me è puro. Così non me la pensino più alla bocca. Il coltello si vedrà, ecco, ma non vende, non vende nulla. Ora, non vende. Questo non è mai, ma l'ha venuto da parecchio. Mandato come trovo? E chi c'è il problema? Quando la buccia la dota, non la tratti, la buccia la lampi. Allora, vai, inizio, nuda, normale, allora. Allora, non cammina a fianco, fa l'amplificazione. Questo va due cosettini, uno va a letto e uno va all'amplificazione. Questi, vabbè, questi sono in macchina che tu vieni trattato. Cambia, di questo, mi piace più il tuo attacco. Da un'altra buccia, eh? Infatti. Ma proprio un'altra. A chi? Tu dimmi, chi? Fai, continua a fare un cervello, adesso va a vedere il vento. Ma è così, eh. Basta che non posso parlare di lui di tutto. Capo. Non volevo pubblicare, allora. Capo. Vabbè. Sì, che mi sa che mi sa. Ma non mi sa che mi sa. Ho trovato sul tono, ho trovato sul tono. Hai interi? Allora, Ho fatto il portale. 9 e 1 mi dà di lavanderia. Thank you. dopo fai questa parte di lui, una busta. Quando parlavo con il mio fratello, che ha sentito rimasto vecchi, che si vivevano fatti, passavano e le tiravano tutte le parole. Modifica va a partire, lo scopo di chiare, una M che è andata a trovare. Come ti va? Beh, vabbè, ma la laterale cosa ne so, rimane di più nel suo sistema. Come per lui, come un culo funziona solo in effetti. Invece vedevano 440 e funzionava in AM. Fa la gomma, fa il bagno della gomma, che viene tutta manuale, cioè da aereo, si viene passata leva per raffreddare le potenze, non cagliere. Poi la ributta nuova, quindi la bruciata, la ributta nuova, tutta computerizzata. Quanto vuoi che fa quello? C'è qualcuno? Ci sono io, buongiorno. E beh, Nattalino lo fa uno. E beh, carissimo. Ma sei andato a farti i bagni termali a Platamona? Siamo a Richard. Oggi è previsto un po' di acqua, per cui ce li facciamo qua i bagni. Infatti mi ha pagato 20 più e c'è pure mi ha fatto il bagno. Ho montato adesso l'antenna, non ho messo il cavo, la quella grande, la quella di 9 metri, la multibagno. Ah, piazzata l'hai? Diciamo piazzata, ma bisogna fare qualcosina in più perché bisogna sollevarla un po' più in alto, perché un radialino non l'ho messo perché era troppo vicino al palo, l'avevo sollevare un po' di più. Siccome c'ha queste staffe strane con l'antenna, devi mettere proprio in cima in alto al palo, devi sollevare. I radiali devono andare oltre la cima del palo, io l'ho messa così adesso provvisoria perché non ce la facevo da solo, mi devo fare aiutare, sennò, perché l'ho piazzata tutta intera, tutta in una volta, è un bel longa, 9 metri, non è uno scherzo a portarla su. Sì, infatti. Già faccio, ma non c'è nessuno qua. Ciao, era Luca, non so, magari è impegnato, non so, prova a chiamarlo se c'è. E adesso ho sentito ciao Robert, chi è avanti? Io. Chi c'è oggi? Ea. Perché sei così basso oggi? Perché sono così basso? Non so. No, c'è il QRM alto, no, già sei tu, c'è quasi 9 più 10, no, c'è il QRM altissimo, quasi 9, oggi c'è propagazione, deve essere, poi c'è carica elettrostatica, per cui i segnali vengono, cioè tutti i disturbi vengono amplificati. Ho capito. Chi c'è? È Natalino, ieri a Porto Torre sono andato, già lì senza parlare, la mia figlia. Ah, perché è una figlia di Porto Torre? Mia figlia sta con il fidanzato, una famiglia di fidanzato a Porto Torre, vicino, ce l'hai presente, le acque, come si chiama, dietro lo scoglio lungo, dai, più o meno, dai. L'ho capito. Ma il prodotto è ragazzo. Sì, c'è Natalino pure, ha detto Natalino, ascolti Eugenio. Ma basso basso, c'ho molto QRM, salutamelo, che non so se mi sente. L'hai ascoltata Natalino Eugenio? No, niente, oggi niente. Non l'ascolti? Oh, Robè. Ascolta un attimino che c'è Natalino. L'hai ascoltato Eugenio? No, niente, niente. Ok, avanti che chiama Robè. Sì, a Claudio. Come ti sta arrivando di segnale di RA? Vabbè, segnale. Non c'entra niente, ma sono pochi watt, sto provando un vintage col microfono normale. Sei basso di segnale, sei 9,45 di segnale, ma forse non sta tirando con te. La radio è un po' chiusa, un po' nasina, è comprensibile però un po' nasina. Microfono normale, vabbè, anche se mi allontano così va bene. Prova a parlare un po' più lontano. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, vabbè, microfono normale, la radio è quello che è, la radio antica. Adesso perché ho l'MBP5 ma le connessioni non sono giuste, non capisco il perché, eppure era in 48. No, il segnale è più o meno come quello di coso, con un paio di watt, ci avrai 2-3 watt di coso, di baracchino, poi quello di coso, di Giovanni Bracco, più o meno il segnale 9,45 sta arrivando, e la radio 5 non è granché, te lo dico sinceramente, però è comprensibile. Vediamo se la portatore se ti ascoltano, l'hai ascoltato Claudio oggi? Sì, ciao Claudio, buongiorno. Ma non sta usando la solita antenna, non sta usando la solita antenna, Claudio. Sì, la solita antenna, ma c'ho 2 watt e mezzo, 3 modulati, capito? Ti ascolto bene, non è la tua modulazione, ma ti ascolto bene. Natalia, l'ascolti a Claudio. A Claudio l'hai sentito da Muros con la 48 l'MB più 5, che è una bomba. No, non l'ho sentito, ieri notte c'aveva, cos'era, boh, un Intec, non mi ricordo che baracchino era, comunque usciva bene ieri, andava bene. No, volevo sentire, dai, dimmi un po', Claudio, prova a metterci un altro microfono, magari va molto meglio. Sul canale 9 Claudio sta parlando, sul canale 9 con Angelino, ma non so quanto arriva bene, certo, veramente molto molto bene arriva. Aspetta un attimino, come senti? Negativo. Per me non lo sento proprio. Vabbè, non l'ho sentito a Claudio, c'è Angelino con Giulio. E allora si è spostato, dai. Comunque arriva molto bene, abbiamo fatto le prove. Va bene, e questo è il microfono normale suo originale, dai, della Inuit. Devo vedere questo MBP5 perché non va. Ah, scusa un attimino qua, ma lui non ce l'avevi già tu, quello tuo o quello di coso, che ti ha dato coso, ma si chiama Questo è quello che mi ha toccato, io l'avevo venduto a Marco Scorpio, questo è più bellino, è tutto cromato davanti e poi è nero, è il modello dopo, dai. Questo c'è il Mickey Gain, anche quello là non ce l'aveva. Ma base sempre. Sì, sì, base vintage 24 canale, 23 più l'11 alfa. Ah, ho capito. Ma c'è anche base laterale? No, c'è solo la M, è del 1971 questa radio. Oh, vabbè. Vabbè, non lo so, il faccio mio ce l'ha la banda laterale, forse pure più vecchio di quello. Va bene, dai, sistemati il microfono, Clara, sicuramente esce molto meglio. Sì, vabbè, non mi interessa, è una radio che devo usare più che per ascoltare, hai capito? Per ascoltare, non per fare niente di che, dai. Ok, proseguite che mi controllo il microfono, le polarità, vabbè. E lo speaker bene funziona, Clara. Alla grande, sei sul 3. Ok, va bene, dai, avanti Eugenio che poi lancia la Natalina. Ho provato il suo nome ma non lo sento proprio quello di Muros. Non lo so, vabbè, sai che sta già lì. Scaroni, dipendi Natalina se mi ascolti. Ciao EUG, Massino ti ascolto. Claudio, le connessioni controlla, che magari quelli noiti ce le ha diverse, capito? Tu connetto A4, lui lo stava usando con l'MB più 4, l'ha attaccato alla LAN 48, cazzo, l'MB più 4 su e c'è una bomba, lo mio fruscia, ne va di poco di casino. Vabbè, dai, adesso controllo. Ok, ci sentiamo dopo, sono qua in ascolto io, vai. Ciao. Sì. E oggi ho lavorato, cacchio, c'ho il QRM a 9, oggi, una cosa bellissima, speriamo che si abbassi. Ma quale antenna è quella PKV, vuoi accordata ogni volta che vai sulla frequenza? Così è Natalia. Hola, 1, 2, 3, prova. Ehi, prova. Ehi, Lunarie. Caragara. Cappa già. Bene, sta andando sta radio. Ah, grande, cara. Andà bene allora. Ciao Massimiliano. Ciao Natalia, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Tutto positivo, cavallo, giovane, che bene. Andà bene, tutto positivo, gaba. La domenica un po' così, dai. E vabbè. Qua c'è ora di pranzo, va. Noi l'abbiamo già preparata, si può dire. Non so cucinare la pasta e boh. Ehi, mi poi quando arrivo a casa ho un tablet a sistemarmi, me l'hanno portato ieri. E qua l'ho sistemato, Devo controllare il connettore di ricarica e in più fare un reset perché è tutto pieno di mondezza. Ah, positivo, va bene, quindi c'è sempre da fare. Un 50 Massimiliano. E Mariso? Io guardo la 51, io sono quattro zocco, un bel zocco, la copia di 50. E non peso questo coccomo nella storia. Mi si sta spegnendo il baracchino, Ciao Gialu. Ho detto, mi si sta spegnendo il baracchino. Un attimino, qui. Kappa, andà bene. Ok. Ma c'è quel buon comune di Natalino, c'è? Eia, non lo senti? Ma sì. Oh, chi è? Claudio, dai, 2,5 watt, 3 watt, ascolta, microfono normale, mi ascolti? Sì, ti ascolto, Clau. Ti ascolto, Santiago 8. Beh, la radio può andare, microfono normale. Sì, dai, accettabile. Vabbè, ho messo il gaggato. Ma va bene l'MB più 5 a questa radio, cazzo. Il suo, l'MB più 4, va bene alla LAN 48, l'MB più 5, il mio anda bene. Oggi ho preso il bagoccio. Claro, la radio va benissimo. La radio, diciamo, normale, là. Normale. Si può migliorare secondo me cambiando. Provaci quel microfono, quello del DAC, per vedere se vanno bene le connessioni. No, non vanno bene, ho capito la radio strana. No, ma mi hai capito che ti ho detto. Allora, il suo Alan 48 l'ho fatto io. Lui sta usando lo stesso microfono che stavo usando con questo da tavolo, l'MBP5, l'ha attaccato lì e c'è una bomba. Molto molto bella la modulazione, l'ho già sentita, molto bella. Il mio che va bene all'Alan 48, l'ho attaccato qua e fischia, non va bene, non c'è portante. La casa. E controlla bene che non ci sia attaccato qualche filo qua dalla capsula, dal... Vedo un po'. connessioni, te l'ho detto, Cla, controlla le connessioni, magari si è staccato il filo dalla portante oppure ha le connessioni diverse quell'apparecchio. Aveva delle connessioni diverse, Natalie, perché l'ho provato sull'Elbex, cioè funziona perfettamente, hai capito? Funziona perfettamente, solo che non lo voglio cambiare le connessioni, non le voglio cambiare, certo. Queste connessioni vanno bene all'Elbex e anche al DAC, non le voglio cambiare. Vabbè, dai, giusto per, userò il microfono normale per fare due chiacchiere di notte, dai. Se no ti fa una prolunga. Hola, cazzo, ti fai una prolunga e li cambi le connessioni nella prolunga, così non cambi quelle del microfono. Se c'ero la prolunga è al contrario lo stesso. Vabbè, qualcosa farò, dai. Qualcosa farò, comunque, se è accettabile, giusto per fare due chiacchiere, d'altronde è una radio di vecchia generazione, non è che posso fare miracoli, Ma non ne ho, Massimiliano, c'avevo il microfono originale della LAN 48 e l'ho dato a lui, non ne ho altri. Ma già avevi tu uno CTM, Bari? Sì, cazzo, quello che mi hai dato tu, però no, le connessioni sono diverse, sono del DAC. No, lascia perdere quello che ti ho dato io, Cla. Mi sembra, non ce l'avevi tu tipo un CTE, un Midland, di quelli tutti neri, mi? Ho trovato a Valerio, cos'è la radio senza microfono, era di quel microfono lì. E da girare un microfono senza. Kappa. E vabbè, diciamo che l'Elbex è arrivato a 10-0, ed è anzianotta come quella più o meno. No, ma questo è un altro tipo di radio, Massimiliano, queste non funzionano come quelle lì, no? L'Elbex è molto più avanti di questa, questa è del 71, mi. L'Elbex è del 86, mi pare, o 96, una cosa del genere. Questa è del 1971 la radio, capito? Non c'è la Mac FM questa. Vabbè, già andava comunque. Tocca buscare un microfono, Cla, e farle bene le connessioni, e quel microfono userai solo con quella radio. Infatti, va bene. E se ne compareggio un altro MB più 4, non sarà che c'è un problema. Kappa, anda bene mera. Avanti c'è Luca e vabbè, Natalino. Ok, io ho rimesso l'alimentatore quello là, e no, questo, quello grande non andava bene, dopo mezzo ai piedi. E hai fatto bene, ma non si sente neanche, lascia perdere, a futtidini, già va bene. Vabbè, Claudio. Sì, ciao Lugarie, buongiorno. Mamma mia, che brutto che sono quel microfono. Lo so, brutto sono, ma sto provando una radio vintage. Non va bene l'MB più 5, cazzo vuoi ti dica, vabbè, dai. Vedo un po' cosa posso fare, se rimanete qua, già sono qua in ascolto un minuto. No, io ogni volta mi ha sentito così brutto di radio, sempre squillante. Vabbè, che si capisce, attenzione, non si capisce. Beh, hai fatto il cambio, già i capi due. Questa è la radio, ma ti sto dicendo, devo mettere l'MB più 5. Questa è la radio col microfono normale, Lu, capito? Questo è il microfono normale. E che radio è questa qua? Un base, un Polmar UX7000 base. Ok, ho fatto lo scambio, come hai detto, il 48. Sì, gli ho dato un 48, capito? Però devo modificare il microfono, se no non va bene, io ho questo microfono normale, ma dico, è una radio da battaglia che mi serve per fare due chiacchiere, niente di che, capito? Oh, vabbè, ti dovrò sentire da casa, perché qua arrivi in basso, non sai che non c'ho l'antenna, là. Ti dovrò ascoltare da casa, comunque non è male, là. Avanti, il bulldozer, Ma cosa c'ha? Regolazione anche dei watt con la radio, Cla? Ah, cosa va? 33 watt. Ah no, adesso no, adesso sto uscendo bene. Ora. Sta dando 5 watt, sta dando, dai. Come fa? Sta dando 3, fanculo, in scala 200. Ora. 5 watt modulati scene sta dando. No, ti spiego, lo sai perché? Perché prima arrivavi 8 a picchi di 9, adesso sei 9 a picchi di 9,5, quasi 10. Hai incrementato un po' il segnale. Infatti, adesso il segnale è il tuo. Adesso vediamo. Riattacco il microfono a vedere. Si è ripresa. Era un po' di tempo ferma, dai. Infatti prima stava dando 2 watt, adesso sta dando quasi 10. 5 watt modulati 8. Prova, magari c'erano roba condensatori a terra. Boh, riprova il microfono a vedere. Prova a inserirlo. E adesso lo inserisco, aspetta. Ello. Apparisce, non venne. Ora, mi senti Massimiliano? Non lo vedi che non stai innescando? Ce l'ho a 4. La modulazione com'è? Meglio dell'altra? Rimane un po' nasina, rimane. Ma i toni tutti chiusi ce li hai? I toni ce li ho a 1. A 1 ce li ho. Prova a chiudere. Guarda, quelli sono tutti chiusi. Lasciali tutti chiusi e alza un po' il microfono. Allora, il microfono così è a metà. Se lo sollevo di più, fruscia. Prova a vedere, aumenta fino al limite. Così a 6 il microfono. E già non stai innescando, vai a 7. Così a 7 il microfono. K. Vai a 8. Ora, così a 8 Massimiliano. Vedi che la radio va una cagubba. Vai a manetta, io dai, vediamo se innesca. Vedi che innesca. Metti a 9. Così è a 8 e mezzo, quasi 9, dai. Così è buona la radio. Luca, lo senti meglio adesso? Prova, guarda a vedere, MB più 5 è quasi a manetta, come adesso? È più forte la radio, ma ti devo ascoltare da casa, perché arrivi in basso qua, capito? Arrivi in basso, sicuramente andrà molto meglio quello, Adesso mi ascolto, aspetta. Adesso la cagubba, Natalia, la cagubba, Mi bari. Ora. Ehi, ma c'è qualche problema però qua, Non è che è troppo alta. Aspetta che lo metto così, dai. Adesso va bene, dai. Non è troppo alta. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova. Eccolo qua. Ah, ecco, mi hai detto di togliere tutta questa cosa. E c'è anche il Mickey Gain, Massimiliano. Non è che posso abbassare anche leggermente il Mickey Gain. Ecco qua, guarda. Ho abbassato leggermente il Mickey Gain. 1, 2, 3, 4. E posso sollevare leggermente qua, guarda. Allora, Mickey Gain abbassato ancora. E sollevo ancora il coso qua. Il microfono, va bene? Sì, può andare bene. Prova a metterlo un po' più alto il microfono. Allora, microfono un pochino più alto. 1, 2, 3, 4. Ecco qua. Così è a 9. A 9 l'ho messo Massimiliano. Non va bene così? Sì, così va bene. Il microfono come ce l'ha della radio? Quasi al massimo, dai. Non è che sia quasi al massimo. È buono così, Natali, cosa dici? Via che anda bene. Così può andare, eccola. Oh, così può andare. Allora lasciamo stare così, dai. Poi mi regolo leggermente questi toni, non mi piacciono, sono troppo. Ecco. Così ho messo i toni a 2, Massimiliano. Lasciali a 2, può andare bene anche a 2. Perché mi sento troppo acuto, se poi barattolosa è così. Leggermente. Leggermente barattolosa. Solleviamo invece così, guarda. 1, 2, 3, 4. Mamma mia, quanto è fea, ragazzi. Boga ne tutto, dai. A 0, toni a 0, dai. Mettili a 1 e toni, appena, dagliene un pelino. Ecco qua, così a 1, Massimiliano, il tono. Ehi, lascialo così, dai. Lascialo così, appena di toni. A 1, dai. Lasciamo stare a 1. Va bene. Allora, puntello. Natalino, puntello. Tagliamo. Allora, puntelliamo, dai. Cioè, va bene. Ok. Troppo alta, me la sento, dai. La abbassiamo leggermente così. 1, 2, 3, 4. Già va bene così, Massimiliano. 7, dai. Così non è facile usare il bed. Ma così è facile usare il bed? È già bassa così. Vabbè, mettila come vuoi, allora. Regolatela tu allora la radio, scusa, non sai dove andare a fare i controlli. Già che è bassa la radio e la bassa ancora. No, cosa c'entra? Che controllo o non controllo? Io sono in cuffia e mi stava facendo sordo. Poi la regolazione è questa, quella che hai fatto tutto. A 8,5, di più non lo posso sollevare perché ecco, così al massimo, guarda. Così al massimo con le Mickey Gay leggermente che non va al massimo. Però che bella che è così la radio. Così va bene. Allora, la lascio stare a manetta, dove ragazzi me la fotti. Poi fatti dare qualche altro controllo. Puoi abbassare un pelino, puoi abbassarlo un pelino, va? Perché la radio è già un po' bassa di per sé, capito? E sai cosa dovete fare? Dovete provare ad agganciare quella scatoletta, secondo me c'è ancora più bene. Adesso la stacco da là e la metto qui. Sono in cuffie e sto fischiando, però dai, no, appena appena, ecco qua. Allora, così è al massimo il microfono, e i toni sono a uno, Massimiliano. Lascio stare così? Sì, lasciala così. Ma sta a regolarti, chiuditi appena appena il mic dalla radio, magari. Infatti l'ho chiuso appena appena, ma proprio un pelino, va. Lascia andare, che fa bene, quella radio è bellissima. Ciao, buongiorno. Passo il segnale, ma la radio fa bene. Ciao Roger, buongiorno. L'ho detto io, va bene, se abbascende, troppo forte. Per me così è buona quest'ultima cosa, pure vedi un po' tu, dai. Non ho più regolazione, Massimiliano, c'è il gatto già abbasciato. Non ho più. Il microfono è al massimo e il mic gain è un attacco a meno del massimo. Perché altrimenti fischia. E già Eugenio è più lontano, ti sta dicendo che è buona, così Eugenio? Sì, sì, bella questa radio. Bella prepotente, come va bene, ma è la sua modulazione così. Comunque va bene. Ti ascolto molto, forte e bene. Ehi Eugenio, dai, va bene. Lasciamo così, questa è una radio gatto di 40 anni. Ok, va bene Massimiliano, quindi il microfono è al massimo, i toni sono a uno e il mic gain della radio è... E mi sono in cuffia però. Il microfono della radio è un pochino più basso del... Proprio un attacco in meno del massimo, dai. Ti ho detto, se vuoi puoi ancora abbassarla un pelino il mic gain. Mettila a due tacche prima del massimo. Chiudere un altro pelino. Capito? Va bene così. Ok, allora aspetta che lo facciamo subito, così lo regoliamo, ecco qua. Allora così è due tacche meno del massimo, dai. Va bene? Va benissimo, lì se devi provarci, Claudio. Un bel partner più 3 su quella radio. Ma io tane più 3 non ne ho più. Non ne ho più. Può darsi che quello che hai tu le connessioni siano giuste, ma non lo so. Non lo so se sono uguali a queste. Le connessioni che ho io sul partner sono per il Galaxy. Quindi devono essere al contrario. Se poi tu adesso quel più 5 lo stai usando senza prolunga e c'è attacco Midland, non può essere attacco Pluto, capito? Cioè Galaxy, scusa. Quindi quello lì c'ha connessioni Midland. Sicuramente, non so cosa dirti, adesso poi lo proviamo meglio. Ok, continuate che devo mettere due filtrini sotto, perché ce l'ho sopra il lineare, se no mi graffia tutto il lineare che l'ho appena fatto verniciare. Sì, registrato. E niente, mettere i filtrini. I filtrini, così si filtrato brutto, eh. Ok, io mi assento un secondino, faccio entrare il brecco, però mi assento un attimo. Ciao Riccardo, buongiorno, entra pure, io mi assento. Buongiorno Riccardino, buongiorno! Non ti ho capito Riccardo, ripeti. Sul 12. Ebbene? Ah, se mi sposto sul 12. Vai, vai. Siamo qua, sì. E sono tanti. Allora, c'è ancora di faccia.